effetto. Qua cerco di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di capire in passato e solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dei potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare. Non esiste antidoto e la morte mentale. Opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale. Nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male. Agire! Matteo, tu hai assistito al film di Riccardo Magherini lo scorso marzo a Firenze. Che cosa ci facevi lì? Avevo accompagnato la mia ragazza a casa, ero ritornato a casa, avevo parcheggiato la macchina e mi stavo dirigendo verso il locale La Cité. Tu sei figlio di un militare, giusto? Sì. Che in quel momento tuo padre era anche lui alla finestra. Mio padre, poi ho saputo dopo, ma è stato forse uno dei primi che ha chiamato perché aveva sentito una persona urlare aiuto. Carabinieri? Buonasera, mi scusi, mi chiamo Torretti, abito in San Fabiano. Che succede? C'è uno che sta urlando, aiuto, aiuto, e sta correndo, non lo so, una persona alta, io la vedo dalla finestra. Io non so se si sente male, che cosa ha, che cosa ha. Sì, ok, ricevuto, forse grazie. Fuori di testa. Vabbè. Torretti? Sì. Quando arrivi, che cosa vedi? C'era Magherini, era ancora in piedi, e i carabinieri cercavano di fermarlo, di arrestarlo, ecco. Lo hanno accerchiato, lo hanno immobilizzato, lo hanno portato in ginocchio, da ginocchio l'hanno buttato a terra e dopodiché da terra gli sono saliti sopra. E finché non l'hanno proprio letteralmente schiacciato, perché erano proprio sopra in quattro a un certo punto. Il carabiniere, che mi sembrava appunto quello più anziano, stava sul Magherini schiacciandogli la testa con due mani così e teneva un ginocchio sul collo. Però cioè, era una persona che era agitata, ma non era aggressivo. Ha anche liberato le braccia. E una volta liberate le braccia ha avuto un atteggiamento violento? No, cioè poteva colpire qualcuno, non ha colpito nessuno. Cioè anche a me adesso a raccontarla, potessi non riraccontartela, non te la racconto, potessi evitare, io lo eviterei di ridirtela, capisci? Ce la vengo a ridire solo perché mi hanno scioccato, mi ha scioccato sentire quelle parole. Sì, nel programma Chi l'ha visto. Il protocollo. Sì. Prevede calci? Ma calci non ci sono stati, non li prevede e non ci sono stati nel caso specifico. Il commento noi calci no, lo possiamo riferire ad uno dei militari perché vi è stata una reazione con i calci da parte del Magherini. Quello che ha detto che i calci li tirava Magherini e che sarebbero stati i carabinieri a dire quella frase è completamente falso, perché quella frase l'ho detta io, perché i carabinieri tiravano calci a Magherini. E la reazione di questa mia frase, i carabinieri, il più anziano di quei carabinieri che era lì, non so se fosse anche il più alto in grado, non lo so, ha ordinato a un altro di prendermi i documenti e di identificarmi. A un certo punto fa tutto a posto, li ho fatto io, perché non capivo perché questi documenti. E quest'altra vera mi rispose tutto a posto, se tutto a posto lo diceva il maresciallo, mi ha detto una cosa così. Io, cioè è una questione di buon senso, penso. Una persona ammanettata non ha bisogno di calci, no? Nemmeno avessero dato calci perché questo, non so, minacciava qualcuno, cioè. Quanti calci hai visto? Senti, io ti potrei dire di sicuro 5-6 all'addome e un paio in faccia. Sicuri. I carabinieri che sentono la tua voce che dice no ai calci no, cosa ti risponde? Ma hanno insultato. Aiuto! Aiuto! Poi dopo uno di questi due individui che erano vicini ai carabinieri, quello con l'accento straniero, mi si è avvicinato e mi ha detto ma te non sai cosa hai fatto, cosa ha fatto. E io ho detto, guarda, io non lo so che cosa ha fatto. Ho detto, ma che vuol dire? Uno lo riempi di calci perché lo ammazzi, perché dice, ma questo ha fatto un furto. Ho detto, chi se ne frega? Che c'entra? Allora gli ho detto, allora ammazzalo, ha fatto un furto, lo ammazzi. Le persone, le due persone che erano fra te e i carabinieri, incitano l'azione violenta verso... Sì, sì, gli hanno detto anche di tirargli dei calci, sì, sì. Gli hanno detto anche di dargliene ancora. Magherini durante tutto ciò che cosa diceva? Magherini urlava, urlava che era un bravo ragazzo, che non aveva fatto niente, che aveva figli. Sto morendo! Senti, a un certo punto tu senti che Magherini smette. Sì, a un certo punto non parla più. Io ero ancora lì quando ha smesso di parlare. Quindi dal momento in cui Magherini smette di parlare, tu dici un carabiniere viene a prendere i documenti. Gli altri che fanno? E gli altri sono rimasti lì. E l'hanno tenuto per terra nella solita posizione? Sì, in tre. Poi dopodiché è arrivata l'ambulanza, io un po' lì mi sono un po' rasserenato, perché vedendo l'ambulanza ho detto vabbè, sto strazio è finito, e dopo un pochino mi sono avviato verso casa. Boh, ci vorrebbe un pochino più di buon senso, secondo me, quando si affronta una situazione, tutto qui, e renderci conto che abbiamo a che fare sempre con degli esseri umani, con delle persone. E ciao a tutti, 1359 in onde medie modulazione di frequenza, questa è Radio Wombat e voi state ascoltando lo spazio della stampa rassegnata. Questa settimana abbiamo aperto, per chi si è collegato dall'inizio, in un modo ovviamente un po' sui generis, un po' particolare, ma credo un modo dovuto. Vi ho fatto ascoltare la registrazione, alcuni spezzoni estratti dalle riprese dell'arresto, del fermo di polizia nel quale poi trovò la morte Riccardo Magherini il 3 marzo del 2014. Ve li ho fatti ascoltare in un video che ha montato insieme a alcuni materiali, a partire dall'intervista molto importante e molto rilevante, che ebbe un peso anche all'interno del procedimento giudiziario, l'intervista di uno dei testimoni di quella drammatica e tragica situazione del 3 marzo 2014 in San Frediano, cioè il fermo di Riccardo Magherini, al quale assistette in modo esterefatto e in qualche modo anche partecipe il signor Torretti, o meglio padre e figlio, uno alla finestra che tentava di chiamare in qualche modo dei soccorsi rispetto al fermo che si stava svolgendo, e il figlio che, senza sapere della telefonata del padre, come lui stesso racconta, che era in strada e a pochi metri dai carabinieri, tentava in qualche modo di stemperare quello che era il comportamento assolutamente violento e brutalizzante della pattuglia che eseguì il fermo e che le cui conseguenze sono ben note, cioè la morte di Riccardo Magherini. Ne abbiamo dovuto per forza di cose riparlare, perché è di questa settimana la notizia che prendiamo dalla Repubblica del 16 di novembre del 2018, ovviamente. Caso Magherini, assolti i tre carabinieri, la Cassazione annulla la sentenza d'appello. Niente, il titolo dice praticamente tutto quello che c'è da dire, perché alla sentenza che era stata emessa un paio di anni fa, se non vado errato, si è sovrapposta, o meglio è stata soppiantata da questa sentenza di Cassazione che ha annullato il procedimento. Quindi la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna per omicidio colposo dei carabinieri Vincenzo Corni, Stefano Castellano e Agostino Della Porta, che il 3 marzo 2014 immobilizzarono in Borgo San Frediano a Firenze l'ex calciatore Riccardo Magherini, di 40 anni. I tre carabinieri sono stati assolti perché il fatto non costituisce reato. Sappiamo più o meno per quello che è la storia, che è ben nota, anche se probabilmente non abbastanza o non quanto dovrebbe essere conosciuta, che Riccardo quella sera era ubriaco, aveva assunto cocaina e che a seguito di una serata, aveva avuto dei comportamenti sopra le righe, che avevano poi richiesto l'intervento della polizia, o meglio dei carabinieri, e quello che è successo è cronaca. Sappiamo che all'interno del processo, la procuratrice, il procuratore generale Felicetta Marinelli, aveva più volte ribadito che, leggendo il virgolettato, se i carabinieri lo avessero messo in posizione retta avrebbero permesso i soccorsi e con elevata probabilità la morte non si sarebbe verificata. Quindi chiede alla Corte di confermare la condanna dei tre imputati per omicidio colposo. Questo non avviene perché la Cassazione ha annullato quella condanna che, per dirla tutta, per dire la verità, era già stata abbastanza risibile, o meglio, era già in qualche modo frutto di un meccanismo che vediamo operare in maniera molto capillare e ricorrente quando si tratta di reati e di comportamenti di polizia, quando si parla di forze dell'ordine, proprio perché la sentenza, insomma, in qualche modo era già stata una sentenza molto molto molto debole e molto molto molto morbida nei confronti di questi carabinieri. Oggi addirittura qui siamo arrivati alla soluzione e abbiamo, come recita anche il comunicato emesso da ACAD Firenze, per chi non la conoscesse, l'associazione contro gli abusi in divisa, associazione insomma che a questo punto è un'associazione nazionale e dentro e per la quale ha lavorato forte sostegno reciproco, l'una situazione in sostegno dell'altra, cioè ACAD nel sostenere la causa di Ilaria Cucchi per il fratello Stefano Cucchi, che recentemente è arrivato alle maggiori cronache proprio per anche le vicende legate al film, alla distribuzione del film, alla distribuzione osteggiata anche dai social network, da Facebook. Quindi insomma è stato un caso anche mediatico, molto più di quello che non è successo per il caso Magherini. E insomma siamo qui a parlarne perché è evidente che quello che è successo non, in qualche modo, sono due vicende che evidentemente sono legate. Con molta probabilità la vicenda di Stefano Cucchi, che ha avuto la ribalta recentissimamente, tra l'altro la ribalta nazionale, e che ha portato insomma una bella macchia di fango su il buon nome, se così si può dire, delle forze dell'ordine, delle forze di polizia, e non solo, insomma, di coloro che hanno agito in quelle circostanze brutalizzando Stefano Cucchi, ma di tutta la macchina burocratica che poi mette avanti l'immagine e la salvezza dell'arma, del corpo in generale, dello Stato e dei suoi apparati, e sacrifica insieme a Stefano Cucchi in questo caso, ma potrebbe essere chiunque altro, sacrifica la verità, sacrifica i diritti umani, anche quelli più minimi. E è proprio di questo che in qualche modo credo ci dobbiamo preoccupare e occupare, perché in vicende come queste muore la moralità tutta di un paese, di una società. E è proprio quello che è successo, credo, nella vicenda di Riccardo Magherini, perché, come avete ascoltato in questa testimonianza, non so quanto avesse girato, io l'ho presa da un video di YouTube, questo video fatto dal Foglio Quotidiano, l'intervistatore è appunto del giornale del Foglio Quotidiano, e il video non ha molte visualizzazioni, per dire la verità. Questo lo diciamo per la cronaca, lo diciamo anche per fare una riflessione che abbiamo fatto anche altre volte su quelle che sono le differenze anche quando si tratta di morti. Le differenze ci sono perché evidentemente diverse sono le vite prima del momento della morte, e diverse sono le situazioni. Non ci possiamo esimere da fare, per esempio, un confronto in questo preciso caso, in questa settimana, tra quello che è stato lo spazio, la rilevanza e anche la partecipazione emotiva e la tensione con cui la notizia di Magherini è stata data e commentata dai giornali, rispetto invece a pochi giorni prima, come si commentava sempre all'interno delle cronache e della stampa mainstream, la visita di Dario Nardella in Spagna, che, mosso da ben altre vicende ad andare in Spagna, si è trovato lì e, visto che c'era, ha in qualche modo anche incontrato giudici e sindaco di Lloret de Mar, per legato alla vicenda invece di Niccolò Ciatti. Ovviamente morti molto diverse, molto diverso anche l'atteggiamento delle famiglie, ma sicuramente quello che più differenzia le due situazioni è proprio l'accaduto. da una parte la vicenda di Niccolò Ciatti, in cui abbiamo un ragazzo che insieme alla sua compagna di amici viene purtroppo insomma colpito da una sequela di colpi tirati da gente che sa anche menare le mani e che muore all'interno di una discoteca in un paese straniero. Dall'altra parte abbiamo un adulto, un giovane adulto, un quarantenne che in una situazione di evidente alterazione psicofisica a seguito di una serata a base di alcol e cocaina subisce poi una brutalizzazione da parte di una pattuglia dei carabinieri. E chiaramente, ed è evidente a tutti, che quando a uccidere sono dei carabinieri o delle forze dell'ordine, tutto è molto molto diverso. La campagna legata a Niccolò Ciatti, che ha avuto una penetrazione capillare nel tessuto fiorentino, metropolitano fiorentino, perché un ragazzo che era di Scandicci, che lavorava al mercato centrale di Firenze e che insomma ha suscitato la solidarietà e comunque l'attenzione di moltissima gente. Una campagna che però è stata declinata dai familiari nella forma della giustizia per Niccolò. Giustizia che a noi con modestia e senza in nessun modo far mancare solidarietà e affetto nei confronti di questo ragazzo giovanissimo che ha incontrato la morte in una situazione tragica e che ovviamente non doveva avvenire, però ci sembra e continua a sembrarci una forma della campagna che niente ha a che vedere con quello che è accaduto, perché coloro che insomma i coinvolti, i protagonisti, gli attori della rissa e dell'omicidio sono poi stati assicurati alla giustizia e c'è una macchina della giustizia che sta funzionando e sono stati immediatamente presi, e quello tra i tre che ha sferrato il calcio mortale nei confronti di Niccolò è già accusato e non ci sembra che non ci sia giustizia per Niccolò. Quello che vorrei arrivare a dire, sto cercando di misurare e pesare le parole, perché quando si parla di questi temi è doveroso ma non lasciarsi andare a sfondoni. Quello che sto cercando di dire è che la differenza è evidente: da una parte ci si può permettere di attaccare striscioni con scritto giustizia per Niccolò ovunque, dall'altra, quando ad uccidere sono stati i carabinieri e le forze dell'ordine, quindi lo Stato, l'atteggiamento è molto diverso e è lecito domandarsi quanto durerebbero gli striscioni, degli stendardi con scritto giustizia per Riccardo Magherini, perché quando si dice o si dicesse o si direbbe giustizia per Riccardo Magherini si dovrebbe mettere sotto accusa lo Stato, non solo coloro che hanno agito ma con tutta una serie di implicazioni e tutta una serie di meccanismi e di dispositivi anche comunicativi e anche di costruzione della percezione pubblica, che hanno proprio a che fare con lo Stato e con le istituzioni pubbliche, soprattutto intendendo con queste le forze dell'ordine e gli apparati del controllo e della deputata al controllo e alla repressione. Riccardo Magherini viene ucciso in una situazione veramente assurda, viene ucciso chiedendo egli stesso i soccorsi e l'intervento almeno di un'ambulanza, viene ucciso, come ha raccontato anche il testimone Torretti, in una situazione in cui era evidente la sua sottomissione fisica, l'arresto ormai era stato eseguito, quindi è stato vittima di fatto di un accanimento repressivo e di una, come ho già più volte detto, di una brutalizzazione. Ben altra situazione è stata quella di Niccolò Ciatti, che invece è stato vittima non tanto di un accanimento in una situazione in cui era già evidentemente sopraffatto, ma come si vede da video è stato vittima di un calcio letale, situazione veramente che non doveva accadere, che si poteva e si doveva evitare, probabilmente anche, come dicono giustamente i familiari, anche con una maggiore prontezza di riflessi da parte del personale della discoteca, ma insomma una situazione di ben altro tipo. E il giustizialismo all'interno, che fa da sfondo e da cornice a quella campagna, non casualmente è stato vezzeggiato e coccolato anche dalle forze politiche. Abbiamo visto Luigi Ciatti, che è il padre di Niccolò Ciatti, andare e salire sul palco insieme a Salvini, quando Salvini, prima dell'espluat elettorale, prima di essere al governo, era insomma in piena campagna elettorale montante, e Palazzetto di Scandicci ebbe un momento appunto di propaganda elettorale al quale partecipò anche il padre di Niccolò Ciatti, rivendicando appunto di essere al di là e sopra le forze politiche, però insomma c'era con Salvini. E però lo stesso padre c'è anche al Mercato Centrale a mettere la targa con Nardella, c'è anche nelle stanze del Consiglio regionale con Eugenio Giani del Partito Democratico, c'è un po' con tutti, tentando di spingere questa idea di giustizia che deve essere ancora fatta rispetto al figlio. Non ci sembra che la cornice giustizialista in cui questa campagna si continua a sviluppare possa essere supportata, o meglio, non dovrebbe avere tutto lo spazio che ha. E se ce l'ha, è proprio su questo che credo dovremmo concentrarci: se questa campagna ha tutto questo spazio è proprio perché si svolge e appoggia, si basa su degli elementi che stanno diventando narrazione egemone e dominante, cioè quelli dell'identitarismo e dell'italiano, dell'italianità. In questo caso il ragazzo che viene ucciso all'estero può appunto contare su questo tipo di narrazione e di racconto, cioè del povero italiano che all'estero viene fatto vittima non solo di una rissa, ma poi è vittima di una giustizia che non arriva perché appunto l'italiano viene bistrattato dai paesi esteri. Tutt'altre vicende sono quelle nelle quali degli italiani vengono uccisi da altri italiani, oppure degli stranieri vengono uccisi dagli italiani, quando però questi italiani indossano le divise. Ed è appunto, come ho ribadito, questo il caso di Riccardo Magherini. E certamente la situazione nella quale ha trovato la morte, e che vede senza ombra di dubbio l'atteggiamento brutale dei carabinieri, è quello che dovrebbe essere messo in rilievo, è proprio la disparità anche di quello che è accaduto dopo. La campagna di solidarietà con Riccardo Magherini non ha avuto la stessa penetrazione, la stessa capillarità di quello che è successo a Niccolò Ciatti, appunto proprio perché sono vicende che risentono delle narrazioni dominanti, ma anche vicende sulle quali si costruiscono le narrazioni dominanti. Ed è questo l'elemento che avevo voglia di condividere con voi ascoltatori, in un ricordo che è dovuto, e in una situazione che ci dobbiamo mettere in testa tra compagni e compagne, tra movimenti, tra forze sociali, politiche e della società cosiddetta civile, che intendono mantenere fermi dei cardini di convivenza civile, che i fermi di polizia non possono essere delle situazioni in cui chi viene fermato è al totale arbitrio di chi ferma. Lo stesso quello che è avvenuto su Riccardo, che stava subendo la violenza fisica, è accaduto anche sui testimoni, che a loro modo, come racconta il Torretti, hanno subito delle intimidazioni e gli si è cercato di mettere paura, gli è stato chiesto i documenti, come se appunto il passante sulla strada non avesse il diritto e anche il dovere di dire la sua, di intervenire e di osservare. E questo è un atteggiamento che sta diventando pericolosamente ricorrente, il cacciare i testimoni, la pratica del giornalismo embedded, che abbiamo visto cominciare durante gli interventi bellici di questi anni 2000, è ormai diventata una prassi. Ora la campagna di censura si è spostata anche contro le ONG, che in qualche modo svolgono non solo un'azione di soccorso nei mari e in quel Mediterraneo attraversato dai migranti, ma svolgono anche una funzione di osservatori, e lo stesso la svolgono i passanti, le persone comuni, quando si trovano in situazioni di fermi di polizia in cui le divise intervengono su qualcuno o su qualcosa. E questo evidentemente è un atteggiamento che le forze dell'ordine non gradiscono, ovviamente non hanno mai gradito, ma sta diventando sempre più la regola e la norma.

Ed eccoci rientrati in voce qui nella stampa rassegnata di Radio Wombat dopo Caparezza. Per chi si fosse messo in ascolto solo adesso, anche se nella nostra radio avete la possibilità di non perdere mai niente del tutto, perché attraverso i podcast potete scaricare quello che volete, vi ricordiamo che abbiamo in inizio trasmissione, se vi dovesse interessare, parlato un po' di quello che è stata la vicenda dell'assassinio di Riccardo Magherini e della recente sentenza della Corte di Cassazione che assolve i carabinieri che sono stati responsabili della sua morte il 3 marzo del 2014. Ne abbiamo parlato e collegandosi anche proprio a questo avvenimento di cronaca, del quale abbiamo cercato di evidenziare alcune caratteristiche ricorrenti per quanto riguarda i meccanismi dell'informazione, della costruzione della cosiddetta opinione pubblica e della percezione sociale, ritorna un po' il tema della droga. Siamo senz'altro convinti, e non siamo gli unici da questi microfoni ad esserlo, che il fatto che Magherini quella sera fosse ubriaco, ma ancor più che ubriaco, sotto l'effetto di cocaina, sicuramente è stato uno degli elementi che hanno fatto sì che ci fosse un intervento così pesante, così strutturato da parte dei carabinieri e molto probabilmente anche dell'accanimento e dell'incitamento all'intervento dei carabinieri che alcuni osservatori che si sono trovati nei, diciamo, nei pressi dell'intervento della pattuglia hanno inscenato, cosa di cui ci ha parlato anche nel racconto dell'importante testimone la coppia di padre e figlio, i signori Torretti. Quindi la droga, le droghe, tema ricorrente in questo caso nelle nostre cronache, anche perché la settimana scorsa c'è stato l'evento Firenze Canapa, che è un evento che sta girando, insomma, una fiera della canapa, della coltivazione dei prodotti a base di canapa, che evidentemente, insomma, ha a che fare in qualche modo, trattandosi di canapa, anche con il THC e quindi con le famose canne, che sono un mito o un tabù che durano da decenni nel nostro paese. E a seguito e in concomitanza con questo evento ci sono state anche le classiche giornalate. Le giornalate sono ovviamente una delle specialità della Nazione, che se n'era uscita proprio la settimana scorsa con un articolo allarmistico su, appunto, il problema droga, gli adolescenti, il fatto che i ragazzi, le ragazze si fumano tranquillamente le canne coi genitori, insomma un gran buglione di problematiche sulle quali ci sembra comunque rilevante portare un po' della nostra e della vostra attenzione. Chiaramente, appunto, il problema della droga, delle droghe, ci sembra rilevante proprio perché si va a innestare dentro dei paradigmi precotti che ormai stanno circolando e vengono offerti come chiave di lettura monolitica della realtà, per cui, insomma, la droga è un problema, gli adolescenti in particolare ne sono le vittime, ci sono delle forze occulte, oscure, che tramano nell'ombra contro i buoni e i cittadini per bene, e quindi, insomma, si fa un grande buglione perché i tossici fanno schifo. Quindi il fatto che Magherini fosse in qualche modo sotto l'effetto di sostanze stupefacenti lo rendeva, più che un uomo portatore quindi anche di diritti umani, lo rendeva un subuomo e quindi non portatore di uguali diritti, e quindi in fondo meritevole del trattamento che gli è stato riservato dai carabinieri. Fuori o contro questi paradigmi precotti, vorremmo invece guardare un po' con maggiore razionalità e meno paternalismo e proibizionismo quello che è l'universo del consumo di sostanze stupefacenti, che va invece scomposto o guardato sotto lenti, ripeto, meno moralistiche e in fondo niente altro che con il metodo scientifico. Ne abbiamo un po' chiesto e un po' parlato con dei compagni che si occupano di riduzione del danno, che fanno delle attività intorno ai temi della dipendenza, delle dipendenze, del trattamento, della cura, della prevenzione, soprattutto forse dell'informazione e della sensibilizzazione. E questa diciamo chiacchierata, in questi interventi ve li porgo, se così mi passate il termine, anche come in qualche modo una forma di possibilità di lavoro radiofonico, perché in fondo ci permettono oggi i mezzi tecnici e tecnologici che stanno forse alla portata di tutte le tasche, le nostre tasche, proprio tasche inteso anche in senso fisico, non solo economico e finanziario, perché spesso dentro le nostre tasche ci sono dei telefoni che ci permettono di registrare, di fare foto, di accumulare materiali audio video, che le nostre chiacchierate insomma possano riguardare a volte anche temi seri o semiseri, o possano permetterci di controbattere e contrastare il flusso di informazione falsa, tendenziosa e repressiva che insomma ci pervade attraverso il lavoro di ben altri apparati. I nostri apparati insomma sono abbastanza abbastanza piccoli, abbastanza modesti, però le reti delle nostre collaborazioni possono essere allargate, e quello, il lavoro che abbiamo fatto oggi come tra virgolette modello di radio popolare, di radio diffusa, dove lo studio non ha esattamente un centro ma può essere dappertutto e da nessuna parte, e dove le persone che si coinvolgono possono essere molteplici e possono farlo anche con facilità. Quindi da me lo spunto è stato passato a Nicoletta, che è una voce che avete già sentito da questi microfoni, un'operatrice della CAT, nonché una compagna storica dell'area antagonista fiorentina, e da lei poi a un altro compagno che lei stessa presenterà. Insomma, parliamo di queste questioni della droga, delle droghe, insinuando sempre dei dubbi e dei sospetti, e tenendoci ben alla larga, ripeto, da questi paradigmi, dalle narrazioni tossiche e dai paradigmi precotti e precucinati con i quali appunto si condannerebbero le scelte degli altri in modo molto moralistico e anche abborracciando spesso e volentieri, salvo poi passare sopra alle scelte degli altri, alle condotte morali, quando fa comodo. Mi sto riferendo con questo per esempio all'uso strumentale e propagandistico che è stato fatto di due ragazze, di due giovani ragazze, senza ombra di dubbio consumatrici, poliassuntrici di sostanze stupefacenti, che sono la famosa Pamela e l'altrettanto famosa Desiree. La comunicazione mainstream ha tentato, chiamandole per nome, di creare questo rapporto di vicinanza, di amicalità, e quindi di farle sentire, di farle percepire come elementi integranti della nostra comunità, da contrapporre poi in modo selvaggio, crudo e cruento, in contrasto con quelli che non fanno parte della nostra comunità, che sarebbero gli stranieri che le avrebbero uccise. Da una parte Pamela vittima insomma di eventi ovviamente tragici per mano di stranieri, Pamela cui morte sarebbe poi stata il motivo della vendetta del fascista Traini, che a Macerata ha sparato all'impazzata contro oltre 10 persone, e dall'altra parte Desiree, che invece è stata la protagonista e diciamo la donna italica le cui offese sarebbero poi state il motivo del tentativo di vendetta e di giustizia da parte dei neofascisti, che su Roma hanno scatenato contro il quartiere di San Lorenzo tutto l'armamentario propagandistico che ha tentato appunto di conquistare quelle piazze ormai da oltre 40 anni in qualche modo afferenti ai centri sociali, alla sinistra antagonista, a quello che è rimasto e si è trasformato negli anni da quella che era il movimento dell'autonomia operaia romana. Queste appunto sono due eccezioni che però confermano appunto la regola. In questo caso nessuno ha parlato della loro attitudine, del loro atteggiamento nei confronti delle sostanze stupefacenti, o qualora sia stato fatto è stato minimizzato e colto e letto solo nel suo aspetto vittimistico. Invece insomma droga e droga, un rapporto con le sostanze stupefacenti, è spesso anche una scelta del tutto lucida e razionale da parte delle persone, e quindi ben lontani dai moralismi e dai paternalismi con cui la società legge e produce i suoi stereotipi, vorremmo ragionare di questi temi, e ripeto, lo facciamo porgendo i nostri microfoni in modo ideale a questi altri compagni e compagne. Lascio a loro la parola. Esiste il tema droga o esiste il tema delle droghe? Su questo argomento abbiamo raccolto il parere di Stefano Bertoletti, che è il responsabile d'area prevenzione e riduzione del danno della cooperativa CAT, che da anni lavora su questi temi a Firenze e in Toscana in generale. e buon ascolto. Ciao a tutti. Allora, sul discorso droghe si ripetono spesso le stesse cose. Siamo i giornali trattano questo tema in un modo veramente sconvolgente delle volte. Ormai si vede il ritorno a parlare al singolare di droga, e che è qualcosa di sconvolgente nel 2018 con tutto quello che c'è stato alle spalle. Quindi una logica di 30 anni fa spesso che emerge, con qualche eccezione, che si preoccupa e fa ancora qualche indagine un po' più seria. In generale c'è da dire che ci sono temi emergenti ricorrenti: il ritorno dell'eroina da una parte, le nuove droghe, i mercati, i criptomercati che tutti stimolano la pruderia dell'opinione pubblica, dei giornalisti, anche senza valutare quelle che sono le realtà nazionali. Da un punto di vista politico poi c'è da dire che in Italia da una parte il tema droghe è una rimozione complessiva e trasversale, tutti non lo considerano più di tanto, questo in qualche modo può essere anche una fortuna, per cui ci si limita spesso a delle posizioni moralistiche, soprattutto quelle che vediamo ora, con tutto il tema dei grandi valori che devono tornare, indipendentemente da dove vanno le politiche europee, da come vanno sviluppati i servizi, cosa che poi è stata fatta, no? Ad esempio la riduzione del danno rischia di tornare ora al centro e nel mirino di una politica che la segherà, cercherà di riportarla come nell'era berlusconiana a un'esclusione dai pilastri dei servizi, contrariamente a quello che succede in Europa. Ci sarebbe invece bisogno di approfondire quelli che sono i complessi e anche evoluti modelli di consumo che le persone hanno, anche i giovani, con un lavoro che magari potrebbe consolidare la loro consapevolezza di quello che fanno e dargli anche magari qualche strumentino, tipo il drug checking, per sapere quello che consumano e quindi anche evitare molti rischi. Tutto questo però nel nostro paese ha di fronte molti ostacoli strutturali, politici e anche di opinione pubblica. Molti ancora non capiscono, ma nemmeno i consumatori, l'utilità di una posizione che magari dovrebbe dargli più strumenti per controllare i loro consumi e anche affrontare i momenti in cui ci sono delle crisi sui loro consumi. I servizi su questo non appoggiano, sembra qualcosa di residuale, esiste pure ricerca che parla di consumo controllato, che dà delle indicazioni su questo, ma quello che è dominante è la logica della malattia cronica recidivante che le droghe portano, e che quindi tutte le droghe sono droghe di passaggio. La teoria della droga di passaggio è quella che domina, per cui si ritorna al tema della droga al singolare, purtroppo. E che dire, bisogna continuare a riaprire il discorso, a reintrodurre complessità dove ormai questa è una parolaccia che nessuno vuol più sentire, per cui detto fra noi sono abbastanza cazzi. La pupilla, pupilla, pupilla, pupilla. la pupilla spillata, ha fatto una cazzata. Avevo un amico che tutti chiamavano pupilla, ma ora ho visto pupilla in delle condizioni, si gratta sotto al naso, spesso c'ho dolori. Pupilla è sempre cotto, come un sacerdote delle droghe. Tutto sapeva l'effetto anche la dose. Ah, come anfetamina, sapeva la marca di ogni medicina. P come bambule, te lo diceva sempre se accendevi te. C come codeina, gli sciroppi per la tosse danno una mina. L come LSD, studiava la sintesi per farsi trip. M come mescalina, si era letto Asli e Castaneda. N come narghile, e dopo l'occhio considerava un tè. Povero pupilla, come si è rovinato, ha avuto le partite, è stato a San Damiano. Si è portato all'ospedale, si è fatto a Solliciano. E quando poi sentito, era già malato. Era già malato. Io te l'avevo menata una cifra di volte, ma era una palla al piede, non gli davo le svolte. Oh no, pupilla, pupilla, pupilla, pupilla, pupilla, uh-huh. Pupilla, pupilla dilatata, ha fatto notata. Ui, ui. Pupilla, pupilla spillata, ha fatto una cazzata. M come male, se come sofferenza. Avevo un amico che ingollava tutto. Non voglio dirla, ah ah ah, tanto che serve il lutto. Vuoi tanto che serve il lutto. Pupilla, pupilla, pupilla, pupilla, pupilla. Avevo un amico che tutti chiamavano pupilla. Lui si è illuso di conoscere la strada che porta alla felicità. Ma l'incrocio con la polverina non è stato capace di dire no all'eroina. Oh no, no all'eroina. Oh no, no all'eroina. Oh no, no all'eroina. Oh no. Pupilla spillata, hai fatto una cazzata. Pupilla spillata, hai fatto una cazzata. Pupilla spillata, hai fatto una cazzata. Pupilla spillata, hai fatto una gran cazzata. Hai fatto una cazzata, pupilla spillata, hai fatto una cazzata, pupilla spillata, hai fatto una cazzata, pupilla spillata, hai fatto una gran cazzata. Ui, ui. Eccoci rientrati in voce, ciao a tutti e a tutte i nostri amici, amiche, ascoltatori e ascoltatrici, siete su Radio Wombat, questo è lo spazio della stampa rassegnata, avete ascoltato un grande classico antiproibizionista, Il Generale con Pupilla. E ora ci mancano veramente pochi minuti per chiudere la nostra trasmissione settimanale e lo facciamo guardando, dando un'occhiata a questa tragicommedia dell'espansione, trasformazione dell'aeroporto di Peretola in aeroporto intercontinentale che non manca mai ogni settimana di essere presente sulle cronache cittadine attraverso le voci più disparate. Questa settimana è tutta la politica e il sistema delle grandi imprese fiorentine che si esprime a seguito di un intervento fatto da un collaboratore della commissione del governo che sta analizzando i cosiddetti costi-benefici del master plan proposto dal Toscana Aeroporti ENAC per la costruzione del nuovo aeroporto di Firenze, aeroporto che ricordiamo essere intercontinentale. Lo ricordiamo, lo specifico, perché uno dei dispositivi retorici e linguistici che è stato messo in campo, quantomeno nell'ultimo anno, da parte dei proponenti del progetto è proprio quello di non parlare mai di aeroporto intercontinentale, perché le parole a volte fanno paura, altre volte suscitano entusiasmi, per parlare piuttosto di nuova pista. Con nuova pista è un dispositivo che cerca di spostare l'attenzione sul fatto che l'attuale pista di Peretola è particolarmente pericolosa, particolarmente impattante, soprattutto per quanto riguarda l'impatto acustico sui quartieri sorvolati, Peretola, Quaracchi, i Brozzi e le Piagge, mentre parlando di nuova pista si dà a intendere a chi ascolta e a chi legge che si va a mettere in sicurezza l'attuale aeroporto. Di questo non si parla, perché in realtà la proposta di nuovo aeroporto formulata da Toscana Aeroporti ENAC è quella di un aeroporto propriamente intercontinentale, perché il suo principale obiettivo è quello di aumentare il traffico passeggeri per arrivare, quando sarebbe a pieno regime, a una prospettiva di 4,5 milioni di passeggeri l'anno. Detto questo, appunto, questa settimana che è successo? È successo che tale ingegnere Alfredo Drufruca, membro della commissione costi-benefici sul potenziamento dell'aeroporto di Firenze, voluta dal Ministero dei Trasporti Danilo Toninelli, dice che ci servirà molto tempo per fare questa analisi, perché manca uno studio serio di fattibilità. Chiaramente dal punto di vista dei movimenti, delle associazioni, di tutto il complesso di forze che da anni si stanno opponendo alla costruzione dell'aeroporto, sono parole che in qualche modo non possiamo accogliere con un certo favore, ovviamente tenendo conto di tutto quello che è successo e di quanti e su quanti scalini bagnati anche il governo, così cosiddetto governo del cambiamento, soprattutto la sua componente 5 Stelle, che dentro i movimenti in difesa del territorio e nei conflitti ambientali ha costruito gran parte del suo consenso e ha fatto marciare gran parte della sua macchina propagandistica e elettorale. Eppure lo abbiamo visto alla prova su Taranto, lo abbiamo visto e lo vediamo alla prova delle basi e dell'inquinamento legato ai poligoni militari in Sardegna, lo vediamo alla prova di tante altre situazioni, non ultima anche quella della TAV nel tratto Torino-Lione, quindi la TAV torinese, quella che attraverserebbe la Val di Susa, e è il banco di prova nel quale, o i banchi di prova al plurale, nei quali il governo è impegnato, non ci hanno dato particolare fiducia. Quindi rimaniamo sempre con le antenne alzate, con la guardia alta, perché l'opposizione e la difesa del territorio, dell'ambiente e della salute, nonché del lavoro e della ricchezza collettiva, non può essere appesa solo al filo di questo governo giallo-verde. E infatti lo cominciamo a dire da subito: l'8 dicembre è stato scelto proprio dai valsusini, dai notav della Val di Susa, per ricordare, in qualche modo festeggiare, celebrare, ma anche come giorno che spinga e sostenga ogni anno le vertenze in difesa dei territori e dell'ambiente e contro le grandi opere, è stato scelto proprio come giornata nazionale contro le grandi opere imposte e inutili. Da parte nostra, che abbiamo ospitato qui a Firenze al Circolo Lippi proprio la conferenza dei territori lanciata da settori dei notav, l'8 dicembre sarà l'occasione per stare di nuovo in piazza. Nel nostro caso, più che in una vera e propria piazza, saremo sul territorio, perché stiamo lanciando e costruendo una giornata tra il lago di Peretola, la oasi WWF di Val di Rose e il presidio Non ce ne ritorno aeroporto, che dall'altra parte di via dello Smannoro continua la sua vicenda e la sua vertenza per fermare questo scempio e questa devastazione. Un saluto caloroso e un pugno chiuso a tutti voi, a risentirci per la prossima settimana. Ciao!